eccetera, non se ne è parlato molto. E questo io trovo deprimente da italiana, è abbastanza preoccupante, perché come se all'estero si sono abituati al fatto che in Italia queste cose succedano. Di solito l'Italia è sempre vista come un'anomalia. Eccetera, non se ne è parlato molto, e questo io trovo deprimente da italiana, è abbastanza preoccupante, perché come se all'estero si sono abituati al fatto che in Italia queste cose succedano, di solito l'Italia è sempre vista come un'anomalia. Una novedad.